24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'apertura dell'Ecofin a Wroclaw, con il forte richiamo degli Stati Uniti all'Europa affinché metta da parte ogni tipo di divisione sulla crisi. La Commissione Europea ha presentato la propria controversa riforma dello spazio Schengen, già contestata da 3 paesi. Vi porteremo oggi in Danimarca, dove le elezioni hanno segnato una svolta politica, e vi parleremo dell'ultima guerra commerciale tra Europa e Cina, riguarda le piastrelle. Forte richiamo del segretario americano al tesoro Tim Geithner all'Europa. Nell'Ecofin emergenza a Wroclaw, Geithner ha denunciato come le divisioni tra i governi dell'area euro e quelle all'interno della Banca Centrale Europea stiano mettendo a rischio le contromisure contro la crisi, quando servirebbe massima collaborazione per togliere dai mercati gli attuali rischi catastrofici. Geithner ha comunque promesso che Washington farà tutto il possibile per aiutare l'Europa a superare le sfide che l'attendono. Una strigliata in piena regola quella giunta dall'America, mentre il presidente dell'Eurogruppo Juncker annunciava che l'Unione deciderà a ottobre sulla prossima tranche di aiuti alla Grecia, pari a 8 miliardi, dopo la valutazione della Troica, BCE, Europa, FMI. L'obiettivo è portare Atene a tornare sui mercati sul medio periodo. Via libera da parte di Juncker alla manovra italiana. Roma, ha detto, ha fatto tutto il possibile per consolidare le proprie finanze pubbliche. Apprezzamento infine anche per le misure intraprese da Irlanda e Portogallo. Vediamo ora come hanno chiuso le borse venerdì. Milano e Parigi in calo dopo una seduta vissuta all'insegna degli acquisti fino a un'ora prima della chiusura delle contrattazioni, quando si è scatenata l'attività legata alle scadenze tecniche nel giorno delle tre streghe. Giù le banche, FTSE All Share meno 0,30%. Milano e Parigi hanno chiuso in calo l'ultima seduta della settimana, che termina comunque con un bilancio positivo. Nonostante il meno 0,65% segnato venerdì, nelle ultime 5 sedute il FTSE MIB ha guadagnato il 3,7%. I listini italiano e francese sono stati colpiti dalle vendite nell'ultima ora di contrattazione nel giorno delle scadenze tecniche su opzioni, future e indici. I mercati sono in attesa della decisione di Moody's sul debito dell'Italia, che il 17 giugno scorso era stata messa sotto osservazione per un possibile taglio del rating. A fare le spese di un declassamento saranno soprattutto le banche italiane e francesi, quest'ultime particolarmente esposte nei confronti del nostro paese. A Parigi il Crédit Agricole e BNP Paribas, già declassate da Moody's nei giorni scorsi, hanno perso rispettivamente l'11% e il 7,6%, trascinando l'indice CAC 40 a meno 0,48%. Positive invece le altre borse europee, con Francoforte più 1,18%, Londra più 0,58% e Madrid più 0,61%. A Piazza Affari sul FTSE MIB i titoli peggiori sono stati BPM, Mediobanca e Unicredit, che hanno perso il 7% circa. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. L'area di libera circolazione Schengen è in buona salute, ma ci sono debolezze che vanno corrette per affrontare le nuove minacce. Con queste parole la commissaria degli affari interni Cecilia Malmström ha presentato la proposta di riforma, che prevede di passare da un sistema intergovernativo a un vero e proprio approccio comunitario, rimettendo nelle mani della Commissione il regime decisionale sui ripristini dei controlli alle frontiere in casi di emergenza. Nonostante Germania, Francia e Spagna abbiano già formalizzato la loro contrarietà, la commissaria ha detto di essere pronta a difendere la proposta. Torniamo ora a parlare di economia. In agosto le immatricolazioni di autovetture nel mercato europeo dell'auto sono aumentate, trainate dalla Germania. Nonostante il rallentamento dell'economia europea e la tempesta sui mercati finanziari degli ultimi mesi, in agosto le immatricolazioni sul mercato europeo dell'auto sono aumentate del 7,8%. È un dato positivo che si inserisce nell'andamento a doccia scozzese del mercato europeo, che tra alti e bassi chiude comunque il bilancio dei primi 8 mesi con un calo contenuto nell'1,1%. Questo risultato non particolarmente negativo è stato determinato essenzialmente dal mercato tedesco, che dopo il calo del 2010 dovuto all'effetto dopo incentivi del 2009, quest'anno sta crescendo con tassi a 2 cifre. Tra i grandi mercati negativi sono invece gli andamenti dell'Italia e della Spagna. Il traino del mercato tedesco dovrebbe comunque essere sufficiente per portare in attivo il consuntivo del 2011 dell'intero mercato europeo. Risultato questo particolarmente positivo se si considera il quadro economico e il fatto che il confronto si fa con un 2010 sostenuto da incentivi che nel 2011 2011 non vi sono stati. In calo comunque appare la quota del gruppo Fiat, che sconta il forte impegno nel rinnovo della gamma e l'uscita di produzione di vetture importanti non ancora pienamente sostituite da nuovi modelli. Gianprimo Quagliano, Radio 24 e Sole 24 Ore Bologna. È stato firmato alla presenza del premier russo Vladimir Putin, poco prima del suo intervento di apertura del 10° Forum Internazionale degli Investimenti di Sochi, l'accordo che definisce la ripartizione delle quote per la realizzazione del gasdotto South Stream. La Russia blinda il gasdotto South Stream perché non si possa più tornare indietro dal progetto di portare gas ai mercati europei senza passare per l'Ucraina. Alla presenza di Vladimir Putin oggi a Sochi sul Mar Nero, italiani, francesi e tedeschi hanno definito la composizione societaria del consorzio che costruirà la parte offshore del gasdotto, il progetto più impegnativo a 2000 metri di profondità sotto il Mar Nero. Hanno firmato Paolo Scaroni Tereni, Henri Poilot, amministratore delegato della francese EDF, Harald Schwager della tedesca Wintershall e Alexei Miller di Gazprom. Il monopolio russo del gas mantiene una quota del 50% e Eni porta la propria al 20% senza però cambiare i diritti acquisiti di trasporto del gas. EDF e Wintershall entrano con il 15% ciascuno. Un consorzio europeo a tutti gli effetti, sottolineano i russi. A Sochi, Gazprom ha poi formato un altro accordo con Eni. La compagnia italiana apre ai russi le porte della Libia, cedendo la metà della quota del 33% nel giacimento petrolifero di Elephant, un accordo già stretto in febbraio, ma che il cambio di regime a Tripoli ha reso necessario ridefinire. Antonella Scotto, Radio 24, Sole 24 Ore. 10 anni dopo l'ultimo successo, il centro-sinistra ha vinto le elezioni in Danimarca. Sentiamo. Ha vinto promettendo più tasse e più stato sociale, oltre a una nuova politica sul fronte dell'immigrazione. Quando Helle Thorning-Schmidt parla di momento storico celebrando la sua vittoria nella notte di Copenaghen, non è chiaro se si riferisce al tasso record di partecipazione che ha toccato l'87,7% o al fatto di essere la prima donna danese a diventare premier. Intanto l'alleanza liberal-conservatrice riconosce l'esito del voto, fa gli auguri ma non si sente sconfitta. Cara Helle, dice il premier uscente, ti cedo le chiavi dell'ufficio, abbine cura e ricorda che è solo un prestito. Il premier uscente Rasmussen, che resta comunque leader del partito di maggioranza relativa, paga il lungo percorso compiuto con il partito antimmigrati di PP, che ha anche portato Copenaghen al recente recesso unilaterale dagli obblighi di Schengen in materia di libera circolazione. Helen Thorning-Schmidt, 44enne, definita la Gucci rossa dai suoi detrattori che le rinfacciano avvenenza, abiti e cura negli accessori, arriva alla guida del governo partendo da Strasburgo, dove fino al 2004 è stata parlamentare. Per governare dovrà ora contare su altre donne che guidano la sinistra radicale e il movimento rosso-verde in un vero blocco femminile che questo sì non ha precedenti in Europa. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Una maxi tassa del 69,7% sull'import delle piastrelle che arrivano dalla Cina e quella imposta dall'Unione Europea per cercare di proteggere i produttori di mattonelle del vecchio continente dalle aggressive politiche di prezzo attuate dalle società cinesi. La nuova tassazione durerà fino al 2016. Anna Marino ha intervistato Alfonso Panzani, presidente della Federazione Europea Piastrelle e Ceramica. Il danno è un danno molto importante perché abbiamo assistito a una crescita negli ultimi 5 anni delle importazioni dalla Cina del 142%. Si è attestata a 62 milioni di metri quadri, mentre il prezzo di vendita è diminuito del 12,5%. Da questo abbiamo capito che potevano esistere delle pratiche antidumping. Noi abbiamo perso 15.000 posti di lavoro e abbiamo diminuito del 35% la nostra produzione. Ci sono altre misure? Ma guardi, ci sono queste misure che riportano a una competizione leale le nostre imprese. Ci sono misure prese di minore entità verso le aziende cinesi che hanno collaborato, che rappresentano un dazio supplementare rispetto a quelli attuali del 5-7%, di circa il 30%. È una delle scuole di moda più famose al mondo, con sedi a Milano, Londra e Parigi, e per la prima volta diventa set di un programma televisivo. È ambientato nel prestigioso istituto Marangoni, The Fashion School, la nuova trasmissione in onda su Sky 1. Il direttore generale dell'istituto Marangoni, Roberto Riccio, al microfono di Marta Cagnola. Ci piaceva l'idea di portare le telecamere all'interno di questo mondo che tutti pensano molto esclusivo, molto chiuso, perché è anche un mondo davvero a numero chiuso, perché pochi studenti possono permettersi di venire qui perché c'è una grossa selezione. E in più l'ambiente si adattava molto bene a questo tipo di racconto, per cui abbiamo detto, beh, perché no, non abbiamo bisogno di nuovi studenti, perché la scuola è a pieno, raggiunge sempre i suoi numeri. Però sicuramente volevamo rafforzare e reiterare il fatto che in Italia dal 35 c'è una sola scuola che ha aiutato la moda italiana a diventare quello che è e che attualmente comunque sta continuando a generare nuovi talenti. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.